Cari amiche e cari amici, Radio Alma Bruxellando, buonasera. Questa sera Daniele la regia, abbiamo una trasmissione ricchissima di contenuti. In particolare abbiamo due interviste che vi riproporremo durante la serata, che sono state preregistrate da Georges Laurent e Fiordaliso e da Mary Dee e Georges Laurent. Non perdiamo altro tempo prezioso, per cui ecco la prima intervista che Georges Laurent e Fiordaliso hanno fatto con Luca Storero. Vi consiglio veramente di ascoltarla perché scoprirete moltissime novità e informazioni utili su questo artista. State in ascolto. Beh, a me piace un sacco. Cioè, questo lo sfondo giallo con rosso è proprio dall'idea, è vivo. E poi il becco è la chiave di tutto. E il becco è la chiave di tutto, sì, certo, il becco è la chiave di tutto. C'è il becco. Mi fa venire in mente qualcosa, mi fa venire in mente un sacco di libri. Libri, film. C'è un mondo dietro, insomma. A me sembra che ci sia un mondo dietro. Esploriamo. Sì, esploriamo il mondo. Allora, come avete capito, cari ascoltatori di Bruxellando, siamo di fronte a qualcosa, qualcosa che voi non potete vedere, ma che dovreste vedere. Siamo qui con l'artista, l'artista che ha creato questa opera d'arte, anzi queste opere d'arte che sono purtroppo in chiusura oggi. Noi siamo arrivati l'ultimo giorno, ma almeno abbiamo l'ultimo giorno, ma almeno ci vediamo qualcosa di estremamente interessante e completamente nuovo. Ma chi è l'artista? Intanto il nome. Luca Storero. Ecco, Luca Storero, grazie. Grazie per farci vedere queste cose bellissime. Stiamo parlando di un'opera, di opere d'arte, insomma, di una esposizione che ha per titolo. In italiano sarebbe il ferrabestiario degli animetalli, qui è diventato Animetals. Animetals. Beh, ferrabestiario di animetalli, avete già capito di che cosa stiamo parlando. Opere costruite e fatte con elementi metallici. Esatto, inizialmente diciamo, il progetto mio era di trovare un materiale che fosse abbastanza flessibile per poterci creare come dire, un piccolo, cioè, come dire, un grande mondo fatto di piccole cose, no? Per cui ho provato con materiale era ancora più quotidiale, tipo il riso, piuttosto che la polenta, altre cose. Poi, a forza di sperimentare, sono incappato nella ferramenta che di colpo si è trasformata in una specie di molecole che si sono quasi assemblate da sole per creare sotto la mia direzione, diciamo, i soggetti che mi venivano in mente. Quindi sono partito da un bestiario diciamo, abbastanza somigliante verosimigliante, diciamo. Poi il gioco ha preso la mano e quindi ovviamente da animali, diciamo da bestiario ho dato sfogo alla fantasia, per cui sono arrivato a creare animali immaginari che attingono proprio alla fantasia, subconscio, che ne so, tutte queste cose qua. Bene, voi non li vedete i colori, ovviamente in radio si riesce a vedere poco, ma si riesce a immaginare molto. Beh, dovete immaginarvi due cose un po' diverse. Da una parte gli animetalli che sono veramente costruiti essenzialmente al 95, anzi 99% di metallo con qualche punto di elemento non metallico dentro. E la seconda parte invece di cui stava parlando Luca in questo momento, dove ci sono anche elementi, animali immaginari che sono costruiti di metallo e anche di altre forme, anche di altri pezzi della natura, se mi consentite, pezzi perché proprio vorrei sottolineare il fatto che sono costruiti. Come giustamente diceva Luca, l'impressione è esatta. Ogni elemento diventa un mattone per costruire qualcosa, una molecola dove si Esatto. possono costruire altre cose. Che tecnica usi? Perché qui vediamo noi in realtà dei quadri, ma sono delle foto. Sono foto, chiamiamole di installazione, perché insomma ormai è diventata la terminologia con cui si definiscono gli assemblaggi di materiali diversi. Io mi ero imposto in questa avventura la regola, una volta che avevo identificato la ferramenta come materiale fondante, di utilizzare solo ferramenta, no? Poi di lavorare solo sul formato quadrato, di non utilizzare mai collanti, nel senso che tutte queste cose sono solo giustapposte su un piano e poi, come dire, rimaneggiate in continuazione fino a che il risultato mi sembrava prendesse vita, fondamentalmente quando l'animale mi guardava, no? Cioè, nel senso che l'ultimo momento è sempre quello dell'occhio. E allora è stato proprio l'occhio di alcuni animali che non prendeva la giusta luce lavorando solo con la ferramenta, allora improvvisamente sono entrate in campo le conchiglie. Dopo le conchiglie sono arrivate le foglie, dopo le foglie, diciamo, qualsiasi cosa che trovassi in giro per casa o comunque nei dintorni, senza andare a fare ricerche elaborate, perché mi è piaciuto tipo andare da un anziano ciclista che conosco, lui mi faceva pescare nei rimasugli delle riparazioni delle biciclette, per cui mi coprivo di grasso portando a casa pezzi di catene piuttosto che i fili, i cavi dei freni con cui ho fatto per esempio gli uccelli i passeri sul filo che ci sono nella serie il gallo è l'ultimo della serie degli animetalli perché in qualche modo riassume tutti i materiali perché c'è la catena, ci sono le foglie autunnali che hanno questo rosso così pimpante e poi la conchiglia che mi ha risolto il problema di dargli proprio la fisionomia che quel tipo di gallo ha. E in più in questo caso qua ho utilizzato anche la chiave della vecchia Uno che mi avevano rubato, mi era rimasta solo la chiave, per cui insomma Ha c'è qualcosa, ritrovato vita la ha chiave. ritrovato vita e in qualche modo c'è stata la vendetta dell'animale, Mi insomma. viene in mente, mentre guardo soprattutto gli animetalli, non c'entra da fare, forse sarà anche una questione di assonanza, però anche qualcosa che mi richiama è Negromante. Ah, ok. Allora volevo sapere se c'è un punto di partenza, per queste opere che viene dai libri, che viene dalla cultura. Da dove parte uno a fare una cosa come gli animetalli, come il Ferri Bestiario? Il Ferrabestiario, ma diciamo che sicuramente sono un lettore appassionato, però non saprei dire se c'è un'influenza letteraria specifica, perché qui ho attinto proprio a un immaginario più visivo che letterario, no? In qualche modo. Mi è piaciuto contestualizzarlo nel caso degli animetalli, proprio del Ferrabestiario, come un bestiario medievale dove c'era questa esigenza un po' quasi ingenua di ricatalogare tutto l'esistente, no? Però senza avere la necessità di una fedeltà scientifica, quindi in qualche modo anche reinterpretando l'esistente a mio piacimento. E poi diciamo la passione che io avevo a monte di questa attività, perché io fino a un anno fa non ho mai lavorato con i materiali, ho sempre disegnato, nel senso che ho lavorato diciamo 25 anni nella comunicazione in agenzie di pubblicità come art director, però la mia passione a monte di quello era il disegno, proprio il disegno classico a matita o a china su carta, no? Per cui, come al solito, se una passione proprio l'hai interiorizzata, in qualche modo certe volte ti viene voglia di tradirla, quindi mi è venuta voglia di uscire dalla bidimensionalità del disegno, però in qualche modo disegnando invece che con la grafite o la china con degli oggetti e da questa cosa qui è nata tutta questa esperienza. Qualcuno ci ha provato nel passato, un po' di tempo fa, a fare una cosa simile, a ricopiare facce di uomini, ma anche altre cose, però con le vegetali. Esatto, Arcimboldo, chiaro, Il sì. grande No, Arcimboldo. è chiaro, Allora, quello sì, è un passaggio ineliminabile, quello, sì, sì, è ormai c'è. chiaro. Provato con i vegetali, cioè qual è la differenza, se mi sta venendo in mente, fra usare vegetali e invece animetalli, i metalli e altre cose. Forse proprio quello, il fatto di aver già visto un maestro, come dire, che aveva esaurito in qualche modo l'esperienza con i vegetali, ho detto, boh, quella strada lì mi sembra percorsa a sufficienza, per cui possiamo tentare una strada. Ecco, se devo dire, un artista che mi ha abbastanza sconvolto negli ultimi tempi è un animatore cecoslovacco che si chiama Ivan Švankmajer. Che è un genio della tecnica stop motion e ha creato dei corti dove Dove? Dei corti, dicevamo. ha creato dei corti dove utilizzava materiali diversi, quindi piuttosto che ferramenta o o altre cose, e in qualche modo lì devo ammettere che c'è un precedente che mi ha influenzato molto, anche perché la scuola dell'Est è sempre stata avanti rispetto a tutto il resto del mondo, come creatività, come fantasia, come visionarietà soprattutto, no? Proprio. Sì, sembra che a me ci abbiano in qualche modo meno legami, hanno diciamo meno storia, quindi forse sentono meno il peso della storia, quindi si lanciano chiaro. Avanti, sì, con risultati a volte eccessi, a volte discutibili, ma chiaro, noi siamo più cauti, sì, siamo più attenti a, come dire, a non calpestare magari i sentieri battuti o farlo con citazionismi, invece lì c'è proprio il coraggio, quasi l'incoscienza della creatività, che non si ferma davanti a niente, perché sennò uno si fermerebbe per problemi di autorialità che secondo me non hanno senso, cioè quando uno crea, poi magari può fare dopo discorsi a posteriori dicendo ma forse ho scoperto dell'acqua calda, ma è la mia acqua calda, quindi in qualche modo. Bellissima questa frase, ho scoperto l'acqua calda, ma la mia acqua calda è fondamentale. Ti ringrazio per averlo detto, perché in realtà io credo, sono fermamente convinto dopo 7 anni di bruciando che non esistono artistoidi, esistono solo gli artisti, quelli che riescono a esprimersi meglio, quelli che hanno molto da dire ma riescono a esprimersi poco, quelli che non hanno molto da dire ma sono molto bravi e quindi riescono a esprimersi meglio. Quindi ognuno è artista a modo suo. L'essenziale è non rinunciare a dare sfogo a questa esigenza, perché è fondamentale insomma in qualche modo. E mi leggo un pezzetto perché può essere interessante. Non si capiva se processione o corteo. La massa di sagome variopinte ondeggiava all'unisono, al ritmo di gorgogli irregolari. Solo quando mi passò accanto, notai quanto fossero pelosi i partecipanti. Questo che cos'è? Che cosa ho letto? Hai letto uno dei piccoli brani che accompagnano i brani musicali che ho realizzato per accompagnare l'esperienza degli animatali, perché diciamo mi è piaciuto dare sfogo a tutte le mie passioni, perché diciamo oltre al disegno e di conseguenza le installazioni, la mia altra grande passione è la musica, no? Per cui insomma, avendo suonato fin da ragazzo in band musicali con amici, dove fondamentalmente suonavo il basso, negli ultimi 4 anni ho potuto sviluppare un minimo di competenza tecnica su quasi tutti gli strumenti, per cui ho realizzato questo CD suonando 25 strumenti. Però poi si dice che uno non è artista. Come potevo, non è che sono un eccesso strumentista, però diciamo che l'assemblaggio dei suoni mi ha dato soddisfazione. Diciamo, come Caccio sui Maccheroni ho rincontrato un vecchio amico che è un sassofonista italiano eccezionale che si chiama Andrea Iassot, che suona stabilmente nel quartetto di Franco D'Andrea. Gli ho fatto sentire alcune cose, gli ho detto ma non è che ti piacerebbe interagire con queste musiche che ho fatto, gli ho detto ma perché no? Allora è nata l'avventura del CD che ho chiamato Frogments, sempre la giocando su calambur, su giochi di parole, perché in copertina c'è uno degli animali che è la rana, e quindi lavorando sul discorso della rana e dei frammenti, no? Per cui e in ogni, diciamo, e in più, sempre per completare questa esperienza sinestetica, appunto a ogni brano musicale che è dedicato a ciascuno degli animetalli, nel CD ho aggiunto un piccolo stralcio pseudo letterario, che può essere lo stravolgimento di un luogo comune piuttosto che un fake letterario, dove mi immagino di aver estrapolato dei brani da romanzi di fantascienza anni 50, piuttosto che altre riflessioni tra il serio e il faceto, diciamo. Beh, allora, insomma, è difficile definire Luca un artista che dipinge o che fa delle installazioni, perché qui veramente lui stesso ha usato la parola sinestesia, cioè questa è un'esperienza sinestetica, ci sono le immagini costruite, quindi un mondo diverso, un mondo immaginario che in qualche modo negli anni metalli riprende la realtà, ma nella parte successiva va anche al di là della realtà, cioè costruisce una nuova realtà, ci sono delle parole che accompagnano le opere, c'è anche della musica creata da lui stesso che accompagna la lettura delle opere e le opere stesse, quindi. E il cerchio si chiude con i video che ho E il cerchio si chiude con i registrato. video, quindi insomma abbiamo anche l'esperienza del video. Esatto. È difficile immaginare qualcosa di più completo, devo essere Ah, sì, onesto, diciamo. molto, molto difficile immaginare qualcosa di più completo. Sì. Quindi è assolutamente un'esperienza incredibile, voi potete trovarla, ve lo dico adesso, ma tanto troverete tutto sul nostro blog, sul blog di Brussellando, www.ba.net/lucastorero. E comunque se andate su YouTube Luca Storero Esatto, lì si trovano trovate tutti qualsiasi i video. cosa, anche su Google. Ed è un'esperienza assolutamente interessante. Io devo dire che sono arrivato così, eravamo arrivati un po' per caso, un po' perché volevamo, ma non potevamo non mancare alla chiusura quantomeno, e devo dire che ho fatto male perché dovevo venire all'inizio invece che alla fine. Meglio tardi che mai, insomma. E poi però l'ultima domanda che voglio fare, perché adesso la gente sarà un po' incuriosita, io sarei incuriosito. E mi hanno dato tutti gli elementi perché qualcuno dica, però fammi vedere un po' cos'è sta roba, questa esperienza totale. La domanda è come ci arriva uno? Uno a un certo punto si stanca e dice, ma ogni tanto la domanda che facciamo agli scrittori, come comincia a scrivere uno? Si è incominciato in tutti i modi possibili e immaginabili. Invece come ha cominciato Luca a fare Ma l'artista? più che cominciare è che secondo me nella vita di chiunque, partendo dalle prime esperienze infantili in cui disegni o fai assemblaggi con le conchiglie sulla spiaggia, potrebbe iniziare un mondo. Io semplicemente non l'ho mai smesso. Cioè, quello che mi intristisce è vedere quante persone, come dire, crescendo, dimenticano questa parte ludica che c'è dentro di noi. Non avendola mai lasciata, l'ho assecondata, lasciata crescere dentro di me, non l'ho lasciata morire nei 25 anni di lavoro in agenzia, che sono sicuramente demotivanti, perché il lavoro in agenzia di comunicazione è abbastanza alienante, perché ti demotiva dal punto di vista creativo, trasformandoti in un funzionario che lavora solo per gestire immagini di clienti che di solito, insomma, non hanno grossa lucidità nel gestirla. Per cui quando le circostanze della vita hanno portato al lavoro, di abbandonare me e io di abbandonare il lavoro, ho visto finalmente un'opportunità per dedicarmi di nuovo anima e corpo a tutte le mie passioni, quindi sia la musica, sia il video, i cartoni animati, il disegno, eccetera. Beh, insomma, è incredibile sentire questa forza, la forza dell'artista che esplode. Abbiamo sempre detto che Brussellando è un viaggio, e mi sembra che nel viaggio uno parte bambino con un piccolissimo zaino sulle spalle e poi lo riempie mano a mano, diventa più Esatto. grande lui, anche grande lo zaino. Quello di Luca Storero è sicuramente un zaino che è molto rimaneggiato, cioè continua ad aprirlo e a metterci le mani dentro, che è quello che noi speriamo che facciano anche i nostri ascoltatori, cioè che continuino a guardare nel loro zaino perché sicuramente c'è qualcosa Sì, di molto bello. Uno sicuramente, nello dice, zaino di toh, tutti, questa certo. cosa me l'ero dimenticata, bene, vai a trovarla, vai a cercarla. E io vi ricordo anche che l'esposizione, le installazioni che stiamo guardando sono a Croma, all'Atelier Croma, all'Atelier Croma gestito che da Laura Cascone, che è è stata esattamente. splendida nell'offrirmi questa opportunità, ed è stata veramente un aiuto fondamentale, sia psicologico sia tecnico, perché mi ha veramente aiutato anche nell'allestimento, dando una logica meno caotica forse rispetto a quella che avrei dato io, Beh, soprattutto. conosciamo la sensibilità di Laura che abbiamo avuto già in trasmissione qualche volta e che vi ricordo, andate a vedere sul blog perché le informazioni su Croma, che continua a produrre cose nuove, questa è solo l'ultima delle cose che sta producendo Croma, che continua a fare delle cose assolutamente interessanti, importanti proprio per Bruxelles, per questa, rendere viva questa città. E direi che bisogna seguirla continuamente. Sì, Quindi sicuramente. Bruxellando non è solo libri, è anche tutt'altro, è l'arte a tutto tondo, come possiamo farlo noi in radio, ma ovviamente in questo viaggio c'è Croma, anzi Croma, come dice anche il nome, ci dà i colori, quindi sono Sicuramente. felicissimo di aver incontrato Luca Storero qui a Rete di Croma, e io direi che possiamo chiudere, ma vorrei chiudere con una piccola frase, anzi perché quando si parlava di comunicazione, beh, non si poteva dimenticare una capacità, quella che ha anche sottolineato, di giocare con le parole che ha Luca Storero. Sì, per esempio, diciamo che ho accompagnato sempre in questo gioco di rimandi continui ho pensato sempre di creare questo piccolo collegamento fra il bambino e l'adulto che c'è dentro di noi. Quindi ho accompagnato ad ogni animale un piccolo calambur che può essere una filastrocca per grandi e piccini, no? Quindi nel caso per esempio di una rana ho scritto nata nana, cara rana, per dire, piuttosto che con la mosca ronza losca, fosca mosca, piuttosto che nel caso della medusa è silente, sinoltra, sinuosa medusa, dove mi improvviso poeta della domenica, oppure futurista tipo bizzosa rotella, rimbalza gazzella. Beh, qui c'è proprio uno spreco di figure retoriche, assonanza, alliterazioni, quant'altro. Sì, sì, insomma, sarebbe anche solo divertente leggere questo che abbiamo letto, è il catalogo, di Luca Storero, che contiene anche il CD e quindi il video, non dimentichiamo, e anche solo per questo varrebbe la pena di prenderlo, perché insomma è divertente vedere questo gioco di assonanze. Io direi che siamo alla fine, quindi io ringrazio infinitamente Luca, ringrazio la Telecroma, e c'è qualcosa che bolle in pentola? Sempre nel senso, adesso per esempio, ovviamente, giusto per essere sempre in contraddizione con me stesso, questa esperienza dei materiali è come un filone che per il momento è in stand by, per cui mi ha sollecitato un grande amore per il ritorno al disegno, per cui adesso sto riempiendo le pagine di un Moleskine con disegni di assoluta fantasia e che vorrei come dire, continuare a implementare per poi come dire, scannerizzare e stampare grande, in modo da poter avere questa, di nuovo, questo piccolo paradosso di un piccolo taccuino però in formato cinemascopico, insomma, per cui devo realizzare una mostra così. E queste opere d'arte dove si possono vedere? Oltre che qui a Croma, ma sta chiudendo. Per adesso si possono vedere su internet, nel senso sul mio sito, sì, su YouTube o sul sito Behance, dove le ho, diciamo, messe tutte disponibili per la visita. Molto bene, con questo possiamo chiudere. Grazie ancora a Luca Storero. Grazie tanto a te. E a presto, amici di Borsellando. Ciao! Di nuovo qui, le sorprese non sono certamente finite a Brussellando Radio 101.9 FM. Vi ricordo, prima di lanciare la prossima intervista, che potete trovare e trovare tutte le informazioni e seguirci sul sito della nostra trasmissione radioalma.eu/brussellando, dove vi potrete anche iscrivere alla nostra newsletter per ricevere i podcast delle trasmissioni e soprattutto vedere tutta l'offerta culturale consigliata da noi. Ma non perdiamo altro tempo prezioso, sentiamo cosa ha da dire Riccardo Ruggeri a Marie D e Jean in quest'altra intervista in esclusiva registrata qualche giorno fa. State con noi. Normale, nel frattempo mi ero sposato, erano entrati i figli, quando improvvisamente nasce un'idea, muore Valletta, esce Valletta, muore Valletta, l'avvocato Agnelli prende il potere, dopo un paio d'anni incarica il fratello Umberto e Umberto prende una decisione, secondo me, fondamentale per la Fiat. Siamo nei primi anni 70-71. Decide di spaccare la Fiat in tre pezzi. Questo monolite che si occupava di tutto, si chiamava terra, mare e cielo, no? C'aveva tutto, faceva persino una nave nucleare, tra le altre cose, che non è mai uscita, ma comunque era previsto anche quello. E quindi incarica una società di consulenza americana di riorganizzare l'azienda. Tenete presente che la parola organizzazione non esisteva su nessun documento e nessuno sapeva cos'era, tanto per darvi l'idea, oggi è una cosa ovvia, ma nei primi anni 70 questo termine non era conosciuto. Viene nominate le cosiddette interfacce, gli americani parlavano già in termini con linguaggio sofisticato, l'interfaccia, io sono uno delle tre interfacce. Combinazione, gli americani hanno mi prendono in particolare simpatia, visto la mia grande voglia di lavorare. Parlava anche inglese? No, loro parlavano, loro facevano. Quindi non era questo il motivo. Il motivo era semplicemente che io avevo voglia di lavorare, avevo voglia di imparare. Questo mi dà l'opportunità di imparare e questo mi porta al fatto che siamo... E intanto io avevo già oltre 40 anni, era 20 anni che ero lì sempre. Comunque. A un certo punto sempre Umberto Agnelli ha un'altra intuizione, di mettere insieme tutte le aziende della componentistica Fiat. E poiché gli americani gli avevano parlato particolarmente bene di me, mi viene dato l'incarico di direttore dell'organizzazione, che nessuno sapeva cos'era, e del personale. Tenete presente che questa azienda, chiamiamola sommatoria di aziende, aveva 42.000 dipendenti, quindi non stiamo parlando di una della Commissione Europea. Più della Commissione Europea. Allora, questa esperienza, passano pochi mesi e succede il Big Bang, nel senso che siamo nel 76 e arriva Carlo De Benedetti. Arriva Carlo De Benedetti e viene nominato amministratore delegato e lui come primo atto, nel libro è tutto raccontato questo, anzi poi siamo diventati amici con Carlo De Benedetti e ci ride anche su queste cose, anche se io dico delle cose molto, molto puntuali, puntute. E lui prende la decisione di operare una cosa molto radicale. Praticamente nel libro c'è scritto, praticamente mi licenzia, no? Cioè mi invita ad andare via. Poi cambia idea dopo qualche giorno e diventerò un suo collaboratore importante. E mi cambia totalmente la mia vita. Di colpo io mi trovo da banale travette a occupare una posizione che è stato l'uomo che era stato con Carlo De Benedetti durante i suoi 100 giorni. E di lì cambia la mia vita e inizia una carriera rapidissima, nel senso che mi vengono offerte l'amministrazione delegata di società, via via tutte società in crisi, via via più piccole e le metto a posto. Quindi in queste società ci rimango 2 o 3 anni al massimo e poi me ne danno una più grande, quando è messa a posto me ne danno una più grande più in crisi, fino ad arrivare al caso della New Holland che nessuno voleva e che ho accettato. Il nome New Holland l'ha inventato lei? L'ho inventato io, sì. Dica, come è nato il nome New Holland? Il nome New Holland è nato così, perché... Io mi trovo, il mercato delle macchine agricole del Movimento Terra ha avuto delle crisi mostruose, di cui queste crisi dell'auto sono ridicole rispetto a questo, al mondo. Negli anni '80 sono successe delle cose oscene nel business delle macchine agricole, per cui tutti cercavano di salvarsi comprando aziende e quindi incorporando aziende nuove. La Fiat ha comprato diverse aziende, malgrado questo poi si è trovata a fare. La stessa cosa ha fatto Ford in America. Una di queste aziende si chiamava New Holland e faceva le mieti trebbie. Era a Lancaster, nella contea di Lancaster in Pennsylvania. E io quando dovevo dare un nome a questa società, che tutti avrebbero semplicemente chiamato Fiat Ford, no? Io invece decisi di troncare ogni rapporto con il passato e decisi di dare un nome nuovo. Un nome nuovo e scelsi New Holland perché dove avevamo noi l'azienda era la terra degli Amish, dove è stato girato il famoso film sugli Amish. E quindi trovavo stravagante il fatto che un'azienda di macchine agricole fosse fatta in un luogo dove gli Amish non usano macchine agricole, ma usano i cavalli. Poi il nome Holland evidentemente ci aveva tutta una serie di riferimenti e questo è stato il motivo per cui l'ho chiamata New Holland. È un marchio che possedevo, dei tanti marchi che possedeva la società. È bellissima questa, questa cosa della New Holland. Poi, fra l'altro, questo è un caso che viene studiato, quello della, della New è stato Holland. Studiato in America in modo molto, molto. In Italia l'ha studiato la Bocconi. In America invece l'hanno studiato moltissime, ma soprattutto è successo un fatto che nel libro racconto, che è stato quello di avermi dato la Loyola University, mi aveva chiamato, che è una delle università più prestigiose e più vecchie dell'America, anche se ha solo due facoltà, economia, legge e medicina. Mi hanno invitato a tenere una conferenza sul caso New Holland. E in questa conferenza ha avuto un successo talmente strepitoso che il consiglio di amministrazione mi ha offerto un posto nel board perché dovevano ristrutturarsi anche loro. Io non ho potuto accettare questo per gli impegni che avevo. E mi hanno chiesto allora di potermi mettere nell'elenco dei potenziali, una volta all'anno loro da 126 anni allora, adesso saranno 150, danno una laurea honoris causa a un personaggio solo. E, però mi hanno detto subito, lei sarà uno dei 36, l'abbiamo messo, e sono sempre 36 candidati a questa cosa. Hanno scelto me. Nel 96 hanno scelto me, sono il quinto non americano ad aver avuto questa cosa prestigiosa. C'è un elemento che ci ha colpito proprio leggendo il suo romanzo e che ci ricordava anche nella prima intervista di qualche giorno fa, è che lei da ogni situazione, da ogni crisi ha sempre saputo estrarre il meglio. Quindi ci viene da pensare, in questo periodo così difficile, in Europa che ancora non ha trovato la strada giusta, diciamo, probabilmente ci arriverà. Siamo qui a Bruxelles questa sera, quindi c'è un messaggio che vorrebbe indirizzare ai giovani che ci ascoltano da un lato e alle istituzioni dall'altro. Cosa fare veramente per dimenticare? Oppure sì, viviamo nella crisi, però allora estrapoliamone il meglio affinché diventi veramente un elemento comune per tutti. Ma vede, dunque, allora io non c'ho assolutamente, non c'è nessuno che ci abbia la ricetta, certo, per la crisi. Certo. Anzi, io contesto questo fatto che la crisi si possa risolvere attraverso delle procedure o delle cose. Questa è una crisi profondissima, una crisi paragonabile solo a quella del 39. Credo che non esista nessuno al mondo che abbia la possibilità di avere una ricetta. Quella che seguiamo è una, ma non, le possibilità di riuscita sono modeste, perché chi ha studiato la crisi del 29, e Bernanke per esempio era stato scelto da Obama perché è il più grande studioso della crisi del 29, chi l'ha studiata, e l'ho studiata anch'io ovviamente molto più modestamente, vede che le due tecniche che hanno usato, prima una politica liberista, che è quella che facciamo oggi, questa ricetta liberistica non funziona. Si ci accorge a un certo punto, io parlo del 29, che non funziona. Nel 34 si ci accorge che non funziona. Gli americani sono stufi di questa situazione, trovano una persona che si chiama Roosevelt che dice che lui ha la soluzione, che poi è Keynes, la soluzione, dice addirittura io do del lavoro a tutti, faccio fare un buco e li pago perché prima fanno il buco e poi ci rimettono la terra dentro, no? Fa questa famosa battuta Roosevelt per dire che tutto questo doveva servire per innescare quello che chiamano pomposamente crescita e che non si riesce a innescare quando la cosa è molto grave. La realtà è che nel 39, io credo, nessuno lo ha detto, ma credo che Roosevelt si sia accorto che anche questo non funzionava. Lui ha fatto enormi lavori pubblici, il delta del Mississippi, delle cose mostruose, ma l'innesco non avveniva. Non mi sento di dire per fortuna, ma scoppia la guerra e la guerra resetta tutto. questo non vuol dire certamente che dobbiamo aspettare, oltretutto una guerra noi non saremmo neanche capaci di farla. Non sappiamo più farla. Finirebbe nel giro di... Ecco, quindi questo non, quindi per dire che la cosa è molto più complessa di come noi pensiamo di fare, poi ovviamente ce lo auguriamo tutti. Quello però che c'è di positivo, quello che io dico di positivo, che sono... mi considero un esperto di crisi, avendo passato la mia vita nelle aziende in crisi, è che la crisi fa bene per due cose. Prima di tutto crea unione. Tra quelli che lavorano contro la crisi si crea una grande unione. I miei collaboratori eravamo persone profondamente legate perché c'eravamo un obiettivo, che non sapevamo se l'avremmo raggiunto, ma noi ce l'avevamo. E quindi queste cose le abbiamo ricordate. La seconda cosa è che la crisi libera le quote di mercato. È vero che c'è molta gente che fallisce, ma c'è molta gente che gli prende le quote di mercato di quelli che sono falliti. Quindi questo è un aspetto positivo della crisi. Bisogna saperla cavalcare. Io uso il termine cavalcare la crisi. La crisi non serve a niente lamentarsi, fare delle considerazioni di tipo morale o di altre cose. La crisi bisogna cavalcarla, così come la guerra bisogna cavalcarla, non si ci può stare lì a dire, a lamentarsi. Ormai siamo verso la fine, perché il tempo è tiranno. Sì, il tempo stringe, però io vorrei rubare a Riccardo Ruggeri uno dei suoi segreti, una delle sue arti. E l'arte che vorrei rubare, forse me la faccio rubare, forse mi concedi rubarla, forse no, è quella della controintuizione. Mi spiega che cos'è la controintuizione? Beh, questo è il segreto di Ruggeri. No, la controintuizione è una cosa che chi ha studiato sociologia, chi ha studiato organizzazione aziendale sa esattamente cos'è e lo può dire molto meglio di me. Io lo dico in termini più brutali. In termini brutali, la controintuizione è fare delle cose che gli altri non fanno. Tutto lì. E lei, se ha un'azienda in crisi, si può permettere di fare queste cose qua. Certo, non deve sbagliare, perché la controintuizione c'ha questa cosa. Controintuizione nel senso che non si può andare dietro, e qui, e poi chiudo se siete d'accordo, qui bisogna vedere... valutare i manager. I manager sono persone che devono saper prendere decisioni. Ci sono due tipologie di manager che prendono decisioni. Ci sono quelli che fanno delle analisi approfondite, molto molto approfondite, prima di prendere una decisione, che è la cultura dominante. La cultura dominante di oggi è quella che prepara carte, studi, eccetera, eccetera, e poi alla fine prendono la decisione. Questo tipo di persone soffre talmente per arrivare alla decisione che quando l'ha presa e dovesse essere sbagliata, perché ci sono 50% di probabilità che sono sbagliate, se si accorge di questo fa delle fatiche enormi per cambiarla. Uno come me, che fa controintuizione, che usa la logica della controintuizione, poiché fa dei ragionamenti molto più rapidi saltando dei passaggi, se si accorge di aver sbagliato con la stessa facilità è che rapidissimamente cambia idea, perché non si sente umiliato a cambiare idea. Vi assicuro che non è più facile fare la prima della seconda. Sì, assolutamente. Sì. Assolutamente sì. Allora, in conclusione, secondo lei cosa penserebbe Gianni Agnelli oggi della Fiat e dell'Italia? Così, in conclusione. Gianni Agnelli era un uomo, di un'altra epoca, onestamente, no? Anche se io ho soltanto 10 anni meno di lui, ma è di un'altra epoca, nel senso che lui è l'uomo della crescita, è l'uomo degli anni 60, è l'uomo del kennediano, no? È l'uomo kennediano. E infatti, se lo portiamo in termini americani, Obama doveva rappresentare questo. Il problema è che il mondo non è più quello degli anni 60, e allora non sono persone giuste, secondo me. Oggi ci vogliono delle persone diverse, perché noi, il mondo è in crisi e non è in crescita. Esattamente. Questo è assolutamente vero, infatti io vorrei che i politici nostri usassero la controintuizione, perché se ho ben capito il concetto di controintuizione è la differenza che c'è fra politici e politicanti, che i politici prevedono i bisogni che avrà la gente di domani, mentre i politicanti seguono la gente di oggi. Certo, è anche quello, ma la controintuizione è che lei è di fronte a dei problemi, a un problema. La logica, i libri, il manager, la scienza del management le dice devi scegliere quello, e quello la giusta. La controintuizione è uno che dice sarà tutto vero, ma io scelgo l'altro. Ah, ottimo, questo mi sembra essere un bellissimo messaggio. Il tempo, ahimè, è tiranno, e continuate comunque a seguirci e chissà, ci saranno altre sorprese. Sì, sicuramente, anche perché Riccardo Ruggeri ha la sua casa editrice Gran Torino Libri, e questa ne riparleremo. Si farà di nuovo capolino sulle onde di Radio Alma e Mucellando. Buona serata.